Ad alta voce. Marco Foschi legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Traduzione di Enrico Cicogna. Remedios la Bella fu l'unica che rimase immune dalla peste del banano. Si cristallizzò in una adolescenza magnifica, sempre più impermeabile alle formalità, sempre più indifferente alla malizia e alla diffidenza, felice in un suo mondo di realtà semplici. Non capiva perché le donne si complicassero la vita con corpetti e sottane, e perciò si cucì una palandrana di canapa che si infilava semplicemente dalla testa e risolveva senza tante storie il problema del vestire. E tuttavia non le veniva meno la sensazione di essere nuda, il che, secondo lei, era l'unica forma decente di stare in casa. Quando i figli del colonnello Aureliano Buendía vennero per la prima volta a Macondo, Ursula si ricordò che nelle loro vene scorreva lo stesso sangue della bisnipote e rabbrividì per un terrore dimenticato. «Apri bene gli occhi», la prevenne. «Con uno qualsiasi di loro, i figli ti nasceranno con la coda di maiale». Lei fece così poco caso all'avvertimento che si vestì da uomo e si avvoltolò nella sabbia per arrampicarsi sulla cuccagna e fu sul punto di suscitare una tragedia tra i 17 cugini scombussolati dall'intollerabile spettacolo. Ogni volta che entrava in una sala da pranzo, contravvenendo agli ordini di Ursula, suscitava un panico di esasperazione tra i forestieri. Era fin troppo evidente che non aveva alcun indumento sotto quel rozzo camicione e nessuno voleva capire che il suo cranio raso e perfetto non era una sfida e che non era una criminale provocazione la sfacciataggine con la quale si scopriva le cosce per sopportare meglio il caldo e il gusto col quale si succhiava le dita dopo aver mangiato con le mani. Quello che nessun membro della famiglia seppe mai fu che i forestieri non tardarono a rendersi conto che Remedios la Bella emanava un alito di conturbamento, una raffica di angoscia che continuava a essere percepibile varie ore dopo il suo passaggio. Ignara dell'atmosfera inquietante in cui si muoveva, dell'insopportabile stato di intima calamità che provocava al suo passaggio, Remedios la Bella trattava gli uomini senza la minima malizia e finiva per scombussolarli con le sue innocenti compiacenze. Quando Ursula riuscì a imporre l'ordine che mangiasse con amaranta in cucina perché i forestieri non la vedessero, lei si sentì più a suo agio perché, in fin dei conti, era esentata da ogni etichetta. In realtà per lei era lo stesso mangiare in un luogo qualsiasi e non a ore fisse, ma in conformità alle alternative del suo appetito. Certe volte si alzava a pranzare alle 3 del mattino. Dormiva per tutta la giornata e passava parecchi mesi con gli orari scombinati finché qualche incidente casuale la rimetteva in carreggiata. Quando le cose andavano bene, si alzava alle 11 del mattino e si chiudeva anche 2 ore in bagno completamente nuda, uccidendo scorpioni mentre si illimpidiva dal denso e prolungato sonno. Poi si bagnava con l'acqua della cisterna versandosela addosso con una zucca. Era un'operazione così prolungata, così meticolosa, così ricca di situazioni cerimoniali che chi non l'avesse conosciuta bene avrebbe potuto pensare che si abbandonasse a una meditata adorazione del proprio corpo. Per lei, tuttavia, quel rito solitario era completamente sprovvisto di sensualità e costituiva semplicemente un modo di passare il tempo finché non le veniva fame. Un giorno, quando cominciava a lavarsi, un forestiero sollevò una tegola del tetto e rimase senza fiato davanti al tremendo spettacolo della sua nudità. Lei vide lo sguardo desolato attraverso le tegole rotte e non ebbe una reazione di vergogna, bensì di allarme. «Attento!» esclamò. «Potrebbe cadere giù!» «Voglio soltanto vederla!» mormorò il forestiero. «Ah, va bene!» disse lei. «Ma faccia attenzione, perché quelle tegole sono marce!» Il viso del forestiero aveva una dolorosa espressione di stupore e sembrava combattere sordamente contro i suoi impulsi primitivi per non dissipare il miraggio. «Lasci che la insaponi io?» mormorò. «La ringrazio per la buona intenzione», disse lei, «ma ce la faccio anche con le mie due mani». «Soltanto la schiena», supplicò il forestiero. «Sarebbe una sciocchezza», disse lei. «Non si è mai visto che la gente si insaponi la schiena». Poi, mentre si asciugava, il forestiero la supplicò con gli occhi pieni di lacrime di sposarlo. Lei gli rispose sinceramente che non si sarebbe mai sposata con un uomo così sciocco da perdere quasi un'ora e da restare perfino senza mangiare solo per vedere una donna che faceva il bagno. Alla fine, quando lei si infilò la palandrana, l'uomo dovette, suo malgrado, constatare che era proprio vero che Remedios non portava niente sotto, come tutti sospettavano, e si sentì marchiato per sempre dal ferro incandescente di quel segreto. Allora sollevò altre due tegole per potersi calare nell'interno del bagno. «È molto alto», lo avvertì lei, spaventata. «Si ammazzerà!» Le tegole marce si schiantarono in uno strepito di sciagura e l'uomo riuscì appena a lanciare un urlo di terrore e si ruppe il cranio e restò morto sul colpo sull'impiantito di cemento. I forestieri che udirono il fracasso dalla sala da pranzo e che si affrettarono a portar via il cadavere percepirono sulla sua pelle lo stordente odore di Remedios la Bella, un profumo così compenetrato nel corpo che le crepe del cranio non trasudavano sangue, ma un olio d'ambra impregnato di quel sentore segreto. E allora compresero che l'odore di Remedios la Bella continuava a torturare gli uomini oltre la morte, fino all'impolverimento delle loro ossa. Eppure non collegarono quell'orrendo incidente con gli altri due uomini che erano morti per Remedios la Bella. La supposizione che Remedios la Bella avesse poteri di morte era sorretta da fatti irrefutabili. Benché certi uomini, dalla parola facile, si compiacessero di affermare che valeva ben la pena sacrificare la vita per una notte d'amore con una donna così conturbante, la verità era che nessuno mosse un dito per cimentarvisi. Forse non solo per farla capitolare, ma altresì per scongiurarne i pericoli, sarebbe bastato un sentimento tanto primitivo e semplice come l'amore, ma quella fu l'unica cosa che non venne in mente a nessuno. Ursula non si occupò più di lei. In altri tempi, quando non aveva ancora rinunciato al proposito di offrirle una salvazione mondana, aveva cercato di interessarla alle minute faccende domestiche. «Gli uomini chiedono più di quello che tu credi», le diceva enigmaticamente. «C'è molto da cucinare, molto da spazzare, molto da soffrire per stupidaggini e non solo quello che pensi tu». In fondo ingannava se stessa, cercando di addestrarla alla felicità domestica, perché era convinta che, una volta soddisfatta la passione, non c'era uomo sulla terra capace di sopportare anche solo per un giorno una negligenza che sfuggiva a ogni comprensione. La nascita dell'ultimo José Arcadio e la sua inflessibile volontà di educarlo per farne un papa finirono per obbligarla ad esistere alle sue preoccupazioni per la bisnipote. l'abbandonò al suo destino, confidando che prima o poi succedesse un miracolo e che in questo mondo, dove c'era di tutto, ci fosse anche un uomo con sufficiente menefreghismo da poterla sopportare. Già da molto prima Amaranta aveva rinunciato a ogni tentativo di trasformarla in una donna utile. Ma quando vide il modo insensato con cui aveva spregiato un pretendente che per parecchi motivi era più desiderabile di un principe, rinunciò a ogni speranza. Fernanda non fece neppure il tentativo di capirla. Quando vide Remedios la Bella vestita da regina nel carnevale sanguinoso, aveva pensato che fosse una creatura straordinaria. Ma quando la vide mangiare con le mani, incapace di dare una risposta che non fosse un prodigio di scempiaggine, l'unica cosa che le dispiacque fu che gli scemi di famiglia avessero una vita così lunga. Malgrado il colonnello Aureliano Buendía continuasse a credere e a ripetere che Remedios la Bella era in realtà l'essere più lucido che avesse mai conosciuto e che lo dimostrava in ogni momento con la sua sorprendente abilità di farsi beffe di tutti, la abbandonarono alla mercé di Dio. Remedios la Bella rimase a vagare per il deserto della solitudine, senza croci da sopportare, a maturare nei suoi sogni senza incubi, nei suoi bagni interminabili, nei suoi pasti senza orario, nei suoi profondi e prolungati silenzi senza ricordi, fino a un pomeriggio di marzo, in cui Fernanda volle piegare in giardino le sue lenzuola di fiandra e chiese aiuto alle donne di casa. Avevano appena cominciato quando Amaranta si accorse che Remedios la Bella era indiafanata da un pallore intenso. «Ti senti male?» le chiese. Remedios la Bella, che teneva stretto il lenzuolo all'altro capo, fece un sorriso di compatimento. «Ma che?» disse. «Non mi sono mai sentita così bene». Aveva appena finito di dirlo quando Fernanda sentì che un delicato vento di luce le strappava le lenzuola dalle mani e le spiegava in tutta la loro ampiezza. Amaranta sentì un tremito misterioso nei pizzi delle sue sottane e cercò di aggrapparsi al lenzuolo per non cadere nell'istante in cui Remedios la Bella cominciava a sollevarsi. Ursula, già quasi cieca, fu l'unica che ebbe tanta serenità da riconoscere la natura di quel vento ineluttabile e lasciò le lenzuola alla mercé della luce e vide Remedios la Bella che la salutava con la mano tra l'abbagliante palpitare delle lenzuola che salivano con lei, che uscivano con lei dall'aria degli scarabei e delle dalie e con lei attraversavano l'aria in cui si spegnevano le 4 del pomeriggio e con lei si perdevano per sempre nelle alte arie dove non potevano raggiungerla nemmeno i più alti uccelli della memoria. I forestieri, naturalmente, pensarono che Remedios la Bella aveva finalmente ceduto al suo ineluttabile destino di ape regina e che la sua famiglia cercava di salvare l'onore con la balla della levitazione. Fernanda, rosa dall'invidia, finì per ammettere il prodigio e per molto tempo continuò a pregare Dio di restituirle le lenzuola. Quasi tutti credettero al miracolo e si accesero perfino candele e si fecero novene. Forse non si sarebbe parlato d'altro per parecchio tempo se il barbaro sterminio degli aureliani non avesse sostituito lo stupore con lo sgomento. Benché non l'avesse mai interpretato come un presagio, il colonnello Aureliano Buendía aveva in un certo modo previsto la tragica fine dei suoi figli. Furono giorni neri per il colonnello Aureliano Buendía. Il presidente della Repubblica gli indirizzò un telegramma di condoglianze nel quale prometteva un'indagine approfondita e rendeva omaggio ai morti. Per suo ordine, l'alcalde si presentò ai funerali con 4 corone funebri che pretendeva di collocare sulle bare, ma il colonnello lo buttò fuori. Dopo il funerale, compilò e portò personalmente un telegramma violento per il presidente della Repubblica, che il telegrafista si rifiutò di trasmettere. Allora lo arricchì con termini di singolare aggressività, lo chiuse in una busta e lo imbucò. Come gli era successo per la morte di sua moglie, come tante volte gli era successo durante la guerra per la morte dei suoi migliori amici, non provava un senso di dolore, ma una rabbia cieca e senza oggetto, un'estenuante impotenza. Arrivò perfino a denunciare la complicità di padre Antonio Isabel per aver marcato i suoi figli con cenere indelebile in modo che i suoi nemici potessero riconoscerli. Il decrepito sacerdote, che ormai non riusciva più a connettere le idee e cominciava a spaventare i fedeli con le balorde interpretazioni che azzardava dal pulpito, comparve un pomeriggio nella casa con la scodella dove preparava le ceneri del mercoledì e cercò di ungere tutta la famiglia per dimostrare che si toglievano con l'acqua. Ma lo sgomento della disgrazia aveva colpito così a fondo che nemmeno la stessa Fernanda si prestò all'esperimento e non si vide mai più un Buendia inginocchiato alla balaustra dell'altare nel mercoledì delle ceneri. Per parecchio tempo il colonnello Aureliano Buendia non riuscì a recuperare la serenità. Tralasciò la fabbricazione dei pesciolini, mangiava a stento, vagava come un sonnambolo per tutta la casa, trascinando la coperta e masticando una collera sorda. In capo a 3 mesi aveva i capelli grigiastri, i vecchi baffi con le punte impeciate spioventi sulle labbra pallide, ma in cambio i suoi occhi erano di nuovo le 2 braci che spaventarono chi lo aveva visto nascere e che in altri tempi facevano roteare le sedie al solo guardarle. Nella furia del suo tormento cercava inutilmente di provocare i presagi che avevano guidato la sua gioventù lungo sentieri di pericolo fino al desolato ermo della gloria. Era perduto, smarrito in una casa estranea dove ormai nulla e nessuno gli suscitava la minima ombra di affetto. Una volta aprì la stanza di Melchiades, cercando le orme di un passato anteriore alla guerra, e trovò soltanto le macerie, la mondezza, i mucchi di porcheria accumulati in tanti anni di abbandono. Sulle copertine dei libri che nessuno aveva più riletto, sulle vecchie pergamene macerate dall'umidità, era prosperata una flora livida e nell'aria, che era stata la più pura e luminosa della casa, fluttuava un insopportabile odore di ricordi imputriditi. Un mattino trovò Ursula che piangeva sotto il castagno, appoggiata alle ginocchia di suo marito morto. Il colonnello Aureliano Buendia era l'unico abitante della casa che continuava a non vedere il potente vecchio incurvato da mezzo secolo di intemperie. «Saluta tuo padre!» gli disse Ursula. Lui si fermò per un attimo davanti al castagno e ancora una volta si accorse che nemmeno quello spazio vuoto suscitava in lui una parvenza di affetto. «Cosa dice?» chiese. «È molto triste», rispose Ursula, «perché crede che morirai». «Gli dica», sorrise il colonnello, «che non si muore quando si deve, ma quando si può». Il presagio del padre morto ravvivò le ultime braci di superbia che gli rimanevano nel cuore, ma lui lo confuse con un repentino soffio di forza. Fu per questo che assediò Ursula perché gli rivelasse in che luogo del patio erano sotterrate le monete d'oro che avevano trovato nel San Giuseppe di Gesso. «Non lo saprai mai», gli disse lei, con una fermezza ispirata da un'antica esperienza. «Un giorno», aggiunse, «comparirà il padrone di quella fortuna e soltanto lui potrà dissotterrarla». Nessuno sapeva perché mai un uomo che era stato sempre così disinteressato, avesse cominciato a bramare il denaro con tale ansietà e non le modeste quantità che gli sarebbero bastate per risolvere un caso di emergenza, bensì una fortuna di proporzioni dissennate, la cui sola menzione lasciò Aureliano II in un mare di sgomento. I vecchi compagni di partito, ai quali si rivolse chiedendo aiuto, si nascosero per non riceverlo. Fu in quell'epoca che lo si sentì dire: «L'unica differenza attuale tra liberali e conservatori è che i liberali vanno alla messa delle 5 e i conservatori alla messa delle 8». Tuttavia, insistette con tanta ostinazione, supplicò così a lungo, infranse a tal punto i suoi principi di dignità che un poco di qui e un altro poco di là, scivolando da ogni parte con una sollecitudine misteriosa e una perseveranza spietata, riuscì a raccogliere in 8 mesi più denaro di quanto Ursula avesse sotterrato. Allora andò a far visita all'infermo colonnello Gerineldo Marquez per chiedergli di aiutarlo a promuovere la guerra totale. C'era stato un momento in cui in realtà il colonnello Gerineldo Marquez era l'unica persona che avrebbe potuto muovere anche dalla sua poltrona di paralitico gli allentati fili della ribellione. Dopo l'armistizio di Neerlandia, mentre il colonnello Aureliano Buendía si rifugiava nell'esilio dei suoi pesciolini d'oro, lui si era mantenuto in contatto con gli ufficiali che gli erano rimasti fedeli sino alla sconfitta. Combatté con loro la guerra triste dell'umiliazione quotidiana, delle suppliche, dei memoriali, del torni domani, del ci siamo quasi, dello stiamo studiando il suo caso con la debita attenzione. La guerra perduta senza rimedio contro i devotissimi e deferentissimi servitor vostro che dovevano assegnare e non assegnarono mai le pensioni vitalizie. L'altra guerra, la sanguinosa di 20 anni, non causò loro tanti danni quanto ne provocò la guerra corrosiva dell'eterno differimento. Lo stesso colonnello Gerineldo Marquez era sfuggito a 3 attentati, sopravvissuto a 5 ferite e uscito illeso da innumerevoli battaglie, cedette all'assedio atroce dell'attesa e si sommerse nella sconfitta miserabile della vecchiaia, pensando ad Amaranta fra le losanghe di luci di una casa prestata. Gli ultimi veterani di cui si ebbe notizia comparvero in fotografia su un giornale, a testa indegnamente alta, a fianco di un anonimo presidente della Repubblica che aveva regalato loro dei distintivi con la sua effigie perché se li portassero all'occhiello e restituita una bandiera sporca di sangue e di polvere perché se la mettessero sulla bara. Gli altri, i più degni, aspettavano ancora una lettera nella penombra della carità pubblica, morendo di fame, sopravvivendo di rabbia, imputridendosi di vecchiaia nella squisita merda della gloria. Di modo che quando il colonnello Aureliano Buendía lo invitò a promuovere una conflagrazione mortale che diroccasse ogni vestigio di un regime di corruzione e di scandalo appoggiato dall'invasore straniero, il colonnello Gerineldo Marquez non poté reprimere un brivido di compassione. «Aureliano», sospirò, «già lo sapevo che eri vecchio, ma ora mi rendo conto che sei molto più vecchio di quello che sembri».